fa molto piacere parlare chiaramente anche di Attraverso Lenti Multiple, che sta, e ringraziamo anzi Onda Rossa che ogni anno ci dà spazio per raccontare il festival, anche che è un altro pezzo importante del, diciamo, del percorso artistico di Margine Operativo, in quanto è da 17 anni che proponiamo a Roma questo festival multidisciplinare, e quest'anno tra l'altro ci sono degli elementi di novità, in quanto è tutto al Quadraro, quindi c'è una connessione con, cioè con parte già attraverso lo spazio fisico del Quadraro, in quanto per quest'anno, tra altri due anni, abbiamo fatto una scelta, diciamo, di un progetto triennale che abita Largo Spartaco, l'isola pedonale Largo Spartaco al Quadraro, e quindi con, diciamo, una grande attenzione al festival di quest'anno sulla relazione tra le arti performative del contemporaneo, quindi teatro, danza, musica e fumetti, e rispetto agli spazi in cui si inserisce. Chiaramente spazio inteso nel senso più ampio possibile, non soltanto spazio fisico, ma anche come luogo di vita e luogo di relazione. E quest'anno sono 7 giornate che proponiamo, dal 16 al 30 settembre, partiamo sabato 16 e facciamo un programma intermittenza tutti i fine settimana, quindi 16-17, poi la settimana dopo venerdì, sabato, domenica, quindi 22-23-24, e la settimana successiva 29-30. Tutto il programma chiaramente è pubblicato sul sito che attraversamentimultipli.it, è un programma ricco, abbiamo 22 compagnie nazionali presenti nel festival, e come sempre c'è un grande intreccio di linguaggi, per cui abbiamo la danza, il teatro, la musica, però gli intrecci anche tra questi, diciamo, tra questi linguaggi. E un altro elemento che caratterizza un po' il percorso di quest'anno è anche quello dei formati particolari, nel senso che presentiamo alcune performance che si propongono con delle durate temporali particolari. Per esempio, proprio il primo giorno, il 16 settembre, dalle 17.30 apre il festival, è in azione Progetto Demoni, una giovane compagnia di Lecce emergente che fanno un lavoro tratto dai demoni di Dostoevskij, molto particolare in quanto è assai specifica e si adatta ogni volta ai luoghi in cui si inserisce. E l'altra particolarità è che è uno spettacolo per uno spettatore alla volta e dura soltanto 5 minuti, quindi bisogna, diciamo, prenotarsi a info@attraversamentimultipli.it. E il 17 propongo il secondo frammento di questo lavoro. E sempre il 16, così magari entro un po' nella programmazione anche, se non hai da fare. Sì, sì, vai, vai. L'unica curiosità rispetto alla come si compongono le giornate, nel senso gli orari, ad esempio. Sì, si compongono in maniera multiple e multiforme, come un po' nel nostro stile, e appunto il primo giorno inizia dalle 17.30 con Progetto Demoni, che inizia alle 17.30 e finiscono a mezzanotte, con questo spettacolo che ogni 10 minuti si ripete, e poi alle 19 a Largo Spartaco, all'isola pedonale, quindi senza prenotazione perché abbiamo spazio, siamo open air e lo spazio c'è per fortuna, e c'è Andrea Fidelio con uno spettacolo di circo contemporaneo on air adatto per tutti, quindi questo è un altro elemento che ormai da due anni cerchiamo anche di programmare, spettacoli per le nuovissime generazioni di spettatori, quindi 0-99 anni. E poi alle 21 abbiamo un concerto che però è più una vetrina, un showcase, più un concerto di Pugni in Tasca, giovane rapper del Quadraro proprio, quindi ci fa anche piacere un po' intrecciare il livello, diciamo, romano, urbano con livello nazionale, che però presenta il suo ultimo, diciamo, disco con altri ospiti, quindi, diciamo, è un po' un viaggio, no, in quello che le nuove linguaggi del rap, dell'hip hop romano. E mentre poi il giorno dopo, il 17, invece partiamo dalle ore 20, per cui dicevo, citavo prima il sito, magari uno se lo va a guardare, certo, per controllare, certo, sempre, certo, gli orari. E invece partiamo alle ore 8 con Progetto Demoni, il punto di incontro è sempre Largo Spartaco, ma in realtà Progetto Demoni presenta la loro performance in un altro luogo, però si parte da Largo Spartaco, lascio questo mistero, dalle 8, e poi abbiamo una performance di danza di Daria Greco, giovane danzatrice con base a Roma, con una performance in anteprima costruita e creata per attraversamenti multipli e per i luoghi di Largo Spartaco, e poi balletto civile alle 9:30, una compagnia, diciamo, è un po' in questo momento una delle compagnie di punta della scena della danza contemporanea nazionale e internazionale, e infatti sono a Berlino, vengono a Roma e ritornano a Berlino, e che presentano una performance Marlene. E la particolarità, diciamo, è tutti gli spettacoli che comunque sono tutti un po' riadattati, perché lavorando in uno spazio all'aperto chiaramente devono essere o creati appositamente, o c'è un pensiero e un ricrearli anche, perché chiaramente si vanno a inserire in uno spazio particolare che appunto è urbano, una piazza con la sua vita, e quindi vuole interfacciare anche con quel luogo. E questo è il primo weekend in cui appunto serve la prenotazione soltanto, cioè consigliata la prenotazione solo per il progetto Demoni, perché appunto ha questo formato per pochi spettatori alla volta. E mentre invece poi la settimana successiva partiamo il venerdì, partiamo il venerdì 22, e non so se c'è il tempo per raccontare ancora, oppure tu mi vuoi fare delle domande? Beh, no, andando un po' troppo in là con le date, forse la cosa migliore è dare come riferimenti il sito. Sì, esatto. Magari, ecco, continuando con una panoramica generale rispetto ad attraversamenti multipli, anche rispetto a come si sta evolvendo rispetto alle passate edizioni. Sì, si sta sicuramente è sempre stato un processo attraversamenti multipli, ogni anno ha cercato di avere un po' una caratteristica diversa. Quest'anno siamo accompagnati da due, diciamo, hashtag slogan, che uno è Trova il tuo spazio e l'altro è 17 volte contemporanei, che vogliono un po' sintetizzare i due fulcri intorno a cui ruota il festival. E uno, quello che raccontavo prima, proprio la relazione tra le arti performative del contemporaneo e lo spazio, e l'altro l'elemento che sicuramente è un po' un viaggio tra gli orizzonti della scena artistica contemporanea. Questi sono un po' i due elementi. Sì, sì. La novità appunto è che solo e soltanto in urbano quest'anno, o in luoghi, diciamo, comunque non convenzionali, che si trovano tutti comunque all'interno del quartiere del Quadraro, e qualche performance attraversa anche il quartiere, come Amigdala il 29 e il 30, che presenta un percorso, ogni spettatore fa un percorso solitario accompagnato da una voce all'interno del quartiere, e quindi è molto, diciamo, l'elemento caratterizzante di questo 2017, ma anche per i prossimi due anni, è la relazione appunto con un luogo come il Quartiere del Quadraro, Largo Spartaco, ovviamente anche un po' il network con delle realtà che in quel quadrante della città tutto l'anno sono estremamente attive, come Carla Ciancero, la Galleria d'Arte Contemporanea, che sta lì vicino al Centro Sociale Spartaco, quindi un po', e anche chiaramente Margio Petito cerca sempre anche di creare delle connessioni. E un elemento sicuramente, diciamo, importante è questo proprio della, e che un po' ci avevamo voglia anche di depositare, cioè di fermarsi in un luogo per fare un percorso, anche depositare un po' tutto il lavoro che uno fa per costruire un festival, e anche la relazione che si va a creare con gli spazi con cui si interagisce, se no diventa un po' effimero. Se noi per molti anni abbiamo fatto la scelta del nomadismo, quest'anno appunto per tre anni scegliamo invece di stare in un luogo, che è anche un modo per proporre agli artisti che coinvolgiamo delle residenze, delle piccole residenze. Infatti anche già quest'anno ci sono alcune compagnie che già sono arrivate per costruire gli spettacoli negli spazi che poi li accoglieranno, perché anche la residenza artistica è un po' un processo per cui ci ci interessa molto anche il percorso attraverso cui si arriva a costruire il festival, non soltanto il momento del festival in quanto tale, chiaramente con una grande attenzione anche a agli spettatori, al pubblico, proprio per creare un'interazione anche un po' più continuativa con il pubblico e anche con le persone che vivono in quelle, sì, in quegli spazi. E anche all'interno di questa attenzione che c'è sempre stata, ma che secondo me va sempre rivitalizzata al pubblico, rivitalizzata e anche insomma trasformata in maniera positiva, anche all'interno di questa idea abbiamo, sono già 2 anni che proponiamo anche degli spettacoli, per esempio come dicevo quello di Andrea Fidel, sabato 16 settembre, adatto anche ai bambini, perché ci sembra importante anche proporre degli spettacoli di qualità anche a un pubblico di, diciamo, giovanissimi. Mm-hmm. E un altro focus presente al festival è l'attenzione alla danza contemporanea e a tutte le nuove, diciamo, anche qui alle compagnie giovani che però fanno un lavoro chiaramente di qualità. E per esempio, oltre al Letto Civile, che in realtà per chi un po' si muove sulla danza conosce anche molto forte, abbiamo per esempio Collettivo Pirata Jenny, che è un gruppo di Milano che presenta uno spettacolo Cheerleaders, che tra l'altro ha vinto Danza Urbana Excel, ed è uno spettacolo molto interessante perché multiplayer, quindi crea anche un'interazione col pubblico. Quindi ci sono anche parecchi lavori che hanno questa forma molto aperta, con anche che cerca un po' di rompere la barriera e la frontiera che c'è tra attore e spettatore, danzatore e spettatore, ma per creare un luogo, diciamo, di incontro, un momento anche di condivisione, di un tipo di ricerca che a me chiaramente interessa molto. E oltre a Petro Pirate Geni, che fa questo gioco multiplayer rispetto alla danza contemporanea di nuovissima generazione, per esempio Simone Zambelli, con una performance che appunto è tra danza e teatro fisico, che si chiama Non Ricordo, e Francesca Foscarini, giovane ma molto conosciuta anche a livello internazionale, che presenta un trittico. Siamo molto felici d'altro di riuscire a presentare tutto questo lavoro insieme, perché lei spesso lo presenta, diciamo, spaccato, e invece riusciamo a presentare questo trittico Good Luck, che tra l'altro sarà itinerante in 3 punti diversi, partendo da Largo Spartaco, ed è un trittico sull'assenza che è stato anche alla Biennale, insomma, quindi che è veramente un lavoro bello, importante, soprattutto riuscendo non a presentare sui frammenti, ma i 3 frammenti, diciamo, insieme. Allora, ricordiamo l'appuntamento per Attraversamenti Multipli 2017 dal 16 al 30 settembre. Un abbraccio, un in bocca al lupo e alla prossima. Grazie, vi aspettiamo chiaramente Attraversamenti Multipli a Largo Spartaco, e andate sul sito che è attraversamentimultipli.it, dove trovate tutte le informazioni, gli orari, le modalità, tutto. Perfetto. Ciao, grazie. Alla prossima. Ciao. Ciao.